Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Mit Ballpacken und kein Bock. libertà d'espressione. Sono due giorni che ci fanno due palle così sulla mancata libertà d'espressione. La libertà d'espressione scrivendo menzogne, entrando nella vita privata dei cittadini colpiti dalla repressione, facendo la morale quotidiana attraverso le paroline che gli vengono dettate dai governanti o semplicemente facendo delle vignette definite satiriche. Ma c'è anche chi per libertà d'espressione intende l'alzarsi un mattino, imbracciare un Kalashnikov e andare a regolare i conti con chi da anni lo offende satiricamente e con lui il suo cane da guardia. Non sono cazzi che ci interessano, come quale tra le due sia la vera libertà d'espressione, allora mi viene in mente la seconda ipotesi. Chi decide di regolare con tanto di Kalashnikov i conti con il suo offensore non ha da dar conto a nessuno se non alla propria determinazione. Quella che di solito pensano di avere vignettisti o giornalisti non potrà mai essere una vera libertà d'espressione, perché se vogliono vedere in edicola le loro riviste patinate devono fare attenzione a non toccare più di tanto i propri governanti o la Chiesa. Qualcosa gli viene permesso per democrazia, ma su altre cose più serie non si scherza. No, stavolta il discorso sul terrorismo fatto alle varie nazioni occidentali non regge. Stavolta l'azione di quegli individui islamici non è avvenuta in mezzo alla gente comune, quindi non hanno provocato terrore se non nelle persone che avevano deciso di colpire. Il terrorismo è una strage di Bologna, per esempio, una piazza Fontana o ancora una piazza della Loggia, ma anche le Twin Towers. Anche se lì non si è mai capito per bene se gente come Mohammed Atta era stipendiato da Bin Laden, da George Bush o dalla CIA. Terrorismo sono le bombe nei mercati, sugli autobus, nelle metro, dove c'è la volontà di attaccare la popolazione civile. Terrorismo sono gli esperimenti nucleari come quello di Mururoa da parte della Francia e gli assassini nelle banlieue. Terrorismo sono gli studenti uccisi in Messico, a Guantanamo, le carceri in tutto il mondo, e quello invisibile dell'Italia che ha coperto il culo prima ai macellai di Videla in Argentina, ospitati in segreto nelle scolette dello Stivale e rimpiazzando migliaia di desaparecidos finiti in pasto prima agli squali della dittatura e dopo a quelli in fondo all'oceano con qualche concessionaria della Fiat. Terrorismo è quello con cui il bel Stivale ha coperto il culo a Pinochet in Cile, le vere notti delle matite spezzate. Ma chiariamo subito una cosa: non mi fanno per niente simpatia gli islamici, come non mi faceva simpatia Savonarola, Wojtyla, Ratzinger e l'ultimo papa più pericoloso di tutti secondo me, perché sta buttando giù con la simpatia proletaria le barriere sacre tra lui e le pecore, o fedeli, come preferite. Tantomeno mi fanno pena i vignettisti. I geroglifici sono state le prime parole dell'antica inciviltà, quindi non c'è bisogno di scrivere un pezzo giornalistico per manovrare le menti, ma basta anche un disegnino satirico. Fondamentalisti religiosi di ogni genere e pennivendoli di ogni genere sono tutti anelli di una catena che da secoli stritola le varie popolazioni mondiali. Che si ammazzassero tra di loro, ma sti cazzi! Da tutto questo, come individui in lotta per la libertà, possiamo solo trarne qualche piccolo beneficio, perché ci ritroveremo con qualche pennivendolo o matitaio, qualche fondamentalista, qualche sbirro o altri della loro specie in meno in giro per le città nelle notti nere come le nostre bandiere, calde come l'inferno del fuoco ribelle e dolci come l'amore che cerchiamo di conquistare da sempre e non abbiamo mai avuto con noi, la libertà totale e non quella d'espressione. Self. Questa era Aria con il brano Bellist, oggi venerdì 9 gennaio 2015, diretta d'azione come tutti i venerdì, che si interesserà solo di controinformazione, qualche riflessione come quella con cui siamo partiti e ovviamente se c'è qualche provocazione non mancheremo di farla. Ora si vedrà nel corso della diretta, non c'è nulla di preparato, quindi man mano che si andrà avanti nella diretta decideremo se c'è da fare una provocazione o meno. I temi non mancherebbero, tipo delazioni da parte dei ciuff ciuff, dei notav, di una parte dei notav, perché c'è da dire anche questo, che un'altra parte di notav ha preso le distanze e ha definito a chiare lettere delazione quella apparsa sul sito notav.info contro i redattori del sito di Finimondo. Poi chi è interessato ad approfondire se la va a cercare nel web. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per radioazione: radioazione@autistici.org, per chi vuole mandare notizie, scritti, mail, materiale da poter far pubblicare sul sito di radioazione per contribuire all'aggiornamento della controinformazione quotidiana su radioazione, sul sito di radioazione, o anche per mandarci a fanculo, cioè quello ovvio, usate la mail, oppure chi c'è il telefono può fare una telefonata. Le chat non esistono più sulla pagina radio, ma già da un annetto a questa parte, quindi dicevo, torniamo, siamo seri. Allora, la mail serve anche a chi segue le letture per darci qualche consiglio sui futuri libri da leggere il lunedì, quando qui con me c'è Marcello e si fa sia la controinformazione che la lettura. Stiamo leggendo Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki, da quando abbiamo iniziato, praticamente è il primo libro di quest'anno, lo porteremo avanti ancora per meno un altro mesetto e mezzo, perché siamo poco oltre la metà, quindi con i tempi si arriverà a fine febbraio, giusto per iniziare un altro libro e forse l'ultimo se andiamo di questo passo. E allora radiazione.org invece è il sito dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata e dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso la pagina dei podcast. C'è una pagina, non c'è più la categoria, c'è la pagina in cima, proprio in alto a destra, lo vedete, podcast radiazione. Se ci avete voglia di riascoltarvi qualche vecchia diretta d'azione, avete perso la diretta d'azione precedente, vi volete triturare le palle o le ovaie ascoltando quello che si dice da questi microfoni, lo trovate tutto sulla pagina dei podcast. Invece nella pagina dei download potete scaricare un bel po' di cose più interessanti, non che le dirette d'azione non siano interessanti, ma almeno nella pagina dei download non dovete scaricare la mia voce, non dovete scaricare le mie provocazioni, e quindi è un'altra cosa. Dicevo, nella pagina di download potete scaricarvi un bel po' di materiale che è messo a disposizione e ci spediscono i compagni di tutto il mondo. Ci sono CD, ci sono libri, ci sono puscoli, ci sono adesivi, manifesti, c'è tutto. C'è tutto quello che i compagni mettono in distribuzione nei loro paesi, lo spediscono a radiazione, lo mettono anche su altri siti, per farlo circolare liberamente senza il becco di un quattrino, perché le idee non sono in vendita. Poi sta a chi se lo scarica, se lo tiene per sé, oppure se lo mette in diffusione e lo distribuisce sul proprio banchetto di distribuzione. Il ricavato di questo materiale, fate un pensierino ai compagni detenuti e spenditelo alle casse, fate voi, le mandate direttamente ai compagni in galera, insomma. Il modo come far arrivare i soldi ai compagni in galera non ve lo devo dire io, lo sapete tutti quanti, e quindi posso fermare qua questo andare avanti di cazzate. Allora, la radio trasmette sul server anarchia.net, messo a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che ringraziamo e salutiamo sempre, stesso server su cui poi è ospitato anche il sito di Radiazione. Allora, con tutto questo abbiamo riepilogato tutti gli indirizzi utili per Radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono New Days Delay, Stereo Catastrophe, è il brano, Stereo Catastrophe è il brano, e poi dopo si torna qui e si parte subito con la controinformazione. Stereo Catastrophe. E questo era il maialotto poliziotto. È un regalo, è un regalo di una compagna, me l'ha regalato e oramai è diventata mascotte di Radiazione. Il maialotto poliziotto è un maialotto che suona, ma fa questo, è praticamente vestito da sbirro. Grande la compagna che me l'ha regalato. Allora, banda alle ciance, banda alle stronzate, altrimenti già dicono che sono un cazzone e poi non faccio altro che peggiorare. Ma sti cazzi. Allora, cerchiamo come tutte le dirette d'azione di iniziare bene con la controinformazione e la diretta d'azione, e lo facciamo di solito con delle azioni, e anche oggi lo faremo con delle azioni. Atteneremo un paio di notizie carine con simpatica, quella meno simpatica la metteremo nel mezzo, così ci facciamo una bocca buona, poi ci deprimiamo un po' e poi dopo ci rifacciamo la bocca. Allora, dicevo, la prima notizia è quella di un attacco a Firenze, attaccati bancomat, negozi di lusso e vetture di Frecciarossa. Il testo ha per titolo "Vandali a Capodanno, vandali tutto l'anno". Nella notte di Capodanno a Firenze sono stati intasati numerosi bancomat, imbrattate e sfondate delle vetrine di negozi di lusso del centro della città e tagliate le gomme di svariate 500 russe del car sharing del Frecciarossa. Il testo finisce con la firma "Solidali e complici con la panchina di Sant'Ambrogio". Questa è bella, e invece dicevo, si resta in Italia per quella meno carina, perché praticamente a Modena è stata rinvenuta una microspia all'interno del laboratorio libertario Ligera. Il comunicato che andiamo a leggere è proprio quello dei compagni del laboratorio libertario, che ci dicono: giovedì 18 dicembre al laboratorio libertario Ligera abbiamo rinvenuto una microspia all'interno di un neon sul soffitto, costituita da 3 batterie da 9 volt legate da nastro isolante, con alle due estremità un microfono e un'antenna. Giorno dopo giorno, con l'inasprirsi delle tensioni sociali, spioni affaccendati guidati da PM misterici non esitano a tentare di reprimere quelle esperienze di conflittualità in cui si portano avanti con determinazione percorsi di contrasto e critica radicale a ogni forma di sfruttamento da parte del dominio. Non c'è spazio per il vittimismo, non ricerchiamo compromessi con alcun tipo di sponda istituzionale e autoritaria, non riconosciamo in loro gli interlocutori, di conseguenza non esigiamo un trattamento equo e rispettoso. Siamo consci che il potere punti a eliminare ogni forma di dissenso per preservarsi, mirando a ostacolare rapporti di affinità e solidarietà, criminalizzando chiunque si opponga e aizzandovi contro l'opinione pubblica ormai totalmente plagiata dalle politiche securitarie. Non ci lasceremo intimidire dalla macchina repressiva e continueremo incorreggibili a stare a fianco di chi quotidianamente ostacola il proseguimento di questo alienante esistente laboratorio libertario Ligera. Allora, l'altra notizia invece è una breve... ci rifacciamo subito un'altra volta la bocca con una notizia che arriva da Berlino, Germania, dove è stato bruciato un veicolo della DHL. Perché la DHL? Ce lo spiegano i compagni berlinesi, che dicono nel testo rivendicativo: come gesto di solidarietà con i compagni arrestati e detenuti per l'operazione Pandora a Barcellona e in altre città, abbiamo incendiato un veicolo della DHL la notte del 5 gennaio 2015 nel quartiere di Neukölln a Berlino. O Neukölln, non lo so come si legge. Comunque, se non vi fidate, andatevelo a leggere sul sito di Radiazione. DHL è stata attaccata non solo per la sua collaborazione con l'esercito, ma anche per la diffusione internazionale dei veicoli in questo business, che fa di loro un appropriato obiettivo per il sabotaggio. Allo stesso momento che le agenzie di sicurezza europee condividono informazioni e preparano la loro lotta comune contro le strutture della resistenza, fanno anche sì che la resistenza e la solidarietà militante oltrepassano le frontiere. E quindi gioia e libertà per Lisa Sandra Dorfer, Alba Garcia Martinez, Quadrado, Noemi Carvajal, Ana Hernández del Blanco, Enrique Pérez Balaguer, David Juan Fernández, fino a quando non saranno liberi. I nomi appena letti sono quelli dei compagni arrestati per l'operazione Pandora in Spagna. Queste erano le prime piccole brevi notizie di controinformazione della giornata. Ora, anche perché sto soffocando, mando un brano. Loro sono Enelogic Guerrilla. Il brano, il titolo è lungo, cazzo, mica posso dirvi tutti i titoli. Allora, Lead of Incredible Tale of Badabim Badabim Badabam. Ci ascoltiamo questo brano da titolo lungo, ma non tanto lungo come minutaggio, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. Sana, I'm a son of a mom. I'll be the go, go, back, got the bomb, water, bomb. Enelogic Guerrilla Leader or the Incredible Tale of puntini puntini puntini puntini puntini. E allora ora si ripassa alla controinformazione leggendo prima una citazione. La loro giustizia non sarà mai la nostra e per questo usciremo vittoriosi da un tribunale che di fronte alla crazia libertaria, di fronte alla vera giustizia sociale e l'anarchia, si fa piccolissimo nella sua essenza e significato. Questa è l'apertura della lettera, della prossima lettera che andiamo a leggere, una lettera, uno scritto del compagno Fernando Barcenas, compagno messicano arrestato più di un anno fa per accusato di aver dato fuoco all'albero di Natale gigante della, che la Coca-Cola mette ogni anno in Messico, in altre nazioni, fortunatamente da queste parti non ci arriva. E allora, lettera che inizia con questa, la citazione appena letta, e continua con: ai fratelli e le sorelle oppressi, agli spiriti ribelli, al popolo generale. Prima di tutto voglio dire che questa è la mia maniera di far presente la solidarietà a tutti quegli anarchici che, nonostante le tecniche repressive e controinsurgenti, hanno saputo rimanere fermi. Fratelli, sorelle e compagni, le nostre vite non sono un chiaro esempio di coerenza e intransigenza, e una prova che la libertà promessa esiste sulla terra. Era un lapsus freudiano mio, quello non sono un chiaro esempio di coerenza. Per qualche anarchico anche non è un chiaro esempio di coerenza, ma andiamo avanti con la lettera di Fernando. Molti potranno chiedersi chi sono gli anarchici, questi soldati solitari anonimi e refrattari della legge e dell'ordine imposto da qualsiasi autorità autoproclamata. Qualcuno potrà dire che gli anarchici sono vandali e delinquenti abituali, altri potranno dire che gli anarchici sono degli sfaticati, gente che non vuole lavorare, e molti potranno dire che gli anarchici sono pazzi da legare. Certamente non hanno idea dei veri propositi e dei significati dell'anarchia. Esiste chi dà per scontato che l'anarchia corrisponde al caos, ma senza dubbio, per chi conosciamo e abbiamo sperimentato, sappiamo che si tratta di un ordine naturale, non viziato dalle gerarchie, una fusione naturale delle energie sociali e il beneficio per il beneficio di tutti. Gli anarchici vogliamo l'uguaglianza, però quella vera e non quella falsamente dichiarata dalle leggi e smentita brutalmente per la realtà dei fatti sociali prima di ogni cosa, però non la libertà mutilata e irriconoscibile scritta sulla carta chiamata legge, non la libertà amministrata da banditi di qualsiasi codice più o meno plebiscitario, che sia democratico, repubblicano o socialista, bensì la libertà esercitata integralmente da qualsiasi individuo, fusione di tutte le attività e iniziative liberamente associato per una tendenza naturale. Dico questo per difendere le posizioni e le idee libertarie e rifiutare la diffamazione che si esercita contro di esse. Manifesto anche la mia solidarietà con la compagna Irene Pérez Villegas, o Villegas, che ha manifestato essere oggetto di queste diffamazioni che attentano alla sua integrità e alla sua persona. Va detto che queste pratiche sono state usate dalle autorità universitarie e governative. Basta violenza istituzionalizzata, basta provocazioni e repressione, Fernando Barcenas. E questo era il testo del compagno messicano, abbiamo già detto chi è e in quale occasione è stato arrestato, tra l'altro uno dei reduci dello sciopero della fame di ottobre, settembre-ottobre, mi ricordo bene ancora la data, insieme a Carlos López Chivo e altri due. Questa era per quanto riguarda la lettera. Ora ci ascoltiamo un altro brano prima che io muoio e sbatto qui con la testa sulla tastiera. Non ho un foglio di carta, non iniziamo a fare provocazioni. Bernes Propaganda, il titolo non ve lo dico perché è macedone, sarebbe una grande figura di merda. E poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. Thank you. E questi, ora si ritorna alla controinformazione con un testo che arriva dalla Grecia. Testo che arriva dalla Grecia è scritto dai compagni dei membri imprigionati del CGF. Testo che ha per titolo "Ne è valsa la pena tentare". Non riveleremo una singola parola che potrebbe schiudere l'informazione a nemico. La fuga del carcere è l'unico obiettivo e l'unico scopo di un detenuto anarchico della guerriglia urbana. La parola fuga contiene il senso concentrato di libertà che fa esplodere i muri del carcere che rinchiude le nostre vite. Noi, detenuti anarchici della cospirazione delle cellule di fuoco, non abbiamo mai dimenticato questa parola, anche se la maggioranza si è scordata di noi. I giudici ci hanno condannati a vivere per anni come ombre umane dentro edifici chiusi a chiave, ma non sono mai stati capaci di racchiudere i nostri desideri insubordinati. Ogni notte, con le nostre menti erranti, fuggiamo in un mondo senza le carceri, i secondini armati e le anime rinchiuse. E anche se ogni mattino la chiave del secondino ci riporta alla realtà concreta della prigione, noi sappiamo che ad un certo punto arriverà il nostro giorno e sogneremo la nostra anarchia ad occhi aperti. Il suono della serratura che si sta chiudendo forgia il nostro odio verso il carcere. Ogni fallimento, ogni arresto, ogni errore ci rende ancora più ostinati. Se cadiamo per 3 volte, la quarta ci alzeremo. Non c'è vittoria né sconfitta, ma solo la lotta. Noi sappiamo che la guerriglia urbana anarchica e la cospirazione delle cellule di fuoco sono una battaglia al di là di ogni previsione. In questa battaglia le armi, gli esplosivi possono essere persi. Ma tutto questo può essere ritrovato di nuovo. Ciò che non è perso sono i compagni che ci sarebbe arrivato e che avremmo detto addio al carcere senza ritorno. In queste ore, quando il nemico vanta il suo trionfo, inviamo il nostro più caloroso sorriso cospiratorio a queste persone meravigliose, senza nome, adesso ricercate dalle autorità poliziesche della legge e dell'ordine. Per vale la pena di ripetere la promessa costante: arriverà il nostro giorno. Forza e solidarietà ai ricercati per il caso della tentata fuga dal carcere della cospirazione delle cellule di fuoco. L'ira delle cellule di fuoco non si fermerà, la cospirazione delle cellule di fuoco tornerà ancora più forte. Firmato, cellula dei membri detenuti, cospirazione delle cellule di fuoco CCF, Panagiotis Agirou, Polidoros Yorgos, Economido Olga, Tsakalos Gerasimos, Tsakalos Christos, Chamikelakis Hanis, Mavropoulos Theophilos, Nicolopoulos Yorgos, Nicolopoulos Miainis e Bolano Damianos. Nulla è finito e tutto continua. E dopo questo scioglilingua in greco, il mio solito scioglilingua in greco, andiamo ad ascoltare ancora un altro brano. Loro sono Dean e Todd con il brano The Clockwork, e dopo si torna qui e ancora con informazione con un altro testo di un altro compagno detenuto in Grecia. The clockwork is making a sound. The clockwork is ticking. The street crowd is ruling the sound. The clockwork is filled with sand. The clockwork is running on battery. The clockwork is running on battery. The clockwork on the wall in a factory. The clockwork is ticking. The clockwork is making a sound. The clockwork is ticking. The street crowd is ruling the sound. The clockwork is filled with sand. The clockwork is making a sound. It won't make another round. The clockwork from the pit to the grave. di Red Todd con il brano The Clockwork, come dicevo prima del brano. Ora si va avanti con la prossima lettura, che è la dichiarazione di Mitrusias davanti alla corte di Korydallos. Il primo processo contro la cospirazione delle cellule di fuoco di Il caso Valandry si concluse con diverse condanne, 19 luglio 2011, tra cui Alexandros Mitrusias, colpevole della fabbricazione di esplosivi, possesso di esplosivi e di essere stato complice nell'esplosione nelle case dei ministri del PASOK Luca Canzeri e Gerasimos Arsenis. Condannato a 11 anni di carcere per una condanna totale di 19 anni, scelse di non presentare la domanda per la sospensione condizionale di pena. Il 29-12-2014, condannato a 14 anni al terzo processo contro le CCF, incluso il caso di Nea Smirni. E ora andiamo, dopo aver fatto questo breve riassunto delle vicende giudiziarie di Mitrusias, andiamo a leggere la sua dichiarazione. Dichiarazione politica del compagno Alexandros Mitrusias davanti alla corte del terrore del carcere di Korydallos. Giovedì 28 dicembre 2014, prima di tutto vorrei chiarire che non riconosco questa procedura come una mia difesa personale davanti all'autorità statale, in un quadro di dominazione e sottomissione. Che le mie parole di oggi siano considerate come un'interposizione o come una dichiarazione politica. Inoltre, non risponderò a nessuna domanda alla fine della mia lettura. Per iniziare cronologicamente, vorrei dire che sono stato spinto nella clandestinità a seguito dell'emissione di un mandato d'arresto nel gennaio 2010. La prova erano le mie impronte digitali trovate nella casa di Agi Michelakis, e sarebbe la casa di Alandri, che in seguito rivendicò la responsabilità politica per la partecipazione nelle CCF. Molte cose si potrebbero dire riguardo alle diverse cose della clandestinità e di evadere la legge, ma solo in forma di discussione all'interno del movimento radicale, quando si discutono le scelte, la strategia e le mete. Tuttavia, dato che mi trovo davanti ad una corte di Stato, devo dire che, in vista di un mio probabile incarceramento, ho preferito scegliere la clandestinità, soprattutto dopo il ritmo cataclismico degli arresti di individui appartenenti all'ambiente anarchico anti-autoritario, che furono collegati con delle pretese impronte digitali trovate nella casa di Alandri tra il settembre e il dicembre 2009. Ero a conoscenza dell'accusa presentata contro di me e stavo pensando di affrontarla nel fuoco poliziesco. Mi arrestò il 4 dicembre 2010. Non voglio dire come le armi trovate nel deposito di Smirni vennero in nostro possesso. Tuttavia dirò che queste armi non appartenevano a nessun gruppo rivoluzionario, che non avevano intenzione di venderle e che secondo lo sviluppo della scientifica queste armi non erano state usate in precedenza in nessun luogo. Io ero in possesso di queste armi insieme a Karagiannidis e Sakkas e non ho più nulla da dire su questo argomento. Penso che il meccanismo giudiziario ci ha accusato di possesso delle armi perché non hanno potuto collegarci a nessun atto specifico di violenza rivoluzionaria. Non accetto il dipolo innocenza colpevolezza, in quanto nasce dalle idee di dominazione morale e dalle leggi statali. Però comunque commenterò alcune accuse su Baltas Mokkas e del PM Dimitriou, che assieme hanno stilato e gestito le accuse che sono state esaminate oggi. In sintesi, ho detto che l'accusa per l'incendio doloso contro i funzionari statali e l'ambasciata è piena di identificazioni simulate, un miscuglio di caratteristiche, date che per ogni individuo attribuito c'erano due o tre persone detenute, sulla base di descrizioni contraddittorie e differenti. Nessuna è stata completamente confermata durante l'intero processo di interrogazione. Per quanto riguarda me, si tratta di un'azione in cui non sono coinvolto, poiché, come dissi in precedenza, io accetto l'accusa di possesso di armi, come anche possesso della carta d'identità che mi aiutò nei miei spostamenti durante la clandestinità. Però non ho mai fatto parte delle CCF, né sono stato organizzato assieme a loro, quindi non ho partecipato in questa loro azione. Inoltre, la trasformazione dell'accusa di una sconosciuta organizzazione terrorista nel febbraio del 2011 in accusa di partecipazione all'organizzazione delle CCF coincide cronologicamente con la mia custodia cautelare per l'incendio doloso che ho menzionato prima e con l'attribuzione della carica di guida della sconosciuta organizzazione terrorista ai tre membri delle CCF. Un raggruppamento di sei persone che ha ben tre leader, secondo gli interrogatori. Penso che l'intenzione penale è ovvia e il tentativo delle autorità di polizia giudiziaria è o omogenizzare il nostro raggruppamento con i membri dell'organizzazione o incrementare le accuse attribuite in ogni modo. In ogni modo, l'unità antiterroristica ha eseguito una serie di alterazioni nell'accusa per le armi o nel caso dei sei, come menzionato nei vostri documenti statali. La custodia cautelare di Politis, Antonio Mikhail, lavorava in favore della creazione dell'immagine di un gruppo con le false testimonianze di Andalias e Bagatelas. I nostri spostamenti e contatti con altri individui servono allo stesso scopo. L'identificazione ritardata di Teofilo come copassaggero di Karagiannidis in un pullman fatta dagli sbirri borghesi nell'unità è il culmine della creazione di sospetti importati. Credo che questo sia stato trionfalmente dimostrato durante l'interrogatorio incrociato di Bagatelas nell'aula e dalle domande che ha posto. Ho menzionato questi esempi perché il mio avvocato esporrà un commento più dettagliato riguardo alla prova contro di me durante il processo oratorio. Vorrei parlare anche della compagna Stella Antonio e delle accuse che sta affrontando. Conosco Stella da circa un decennio ed era una mia cara amica. L'ho incontrata nel 2005 nello scuoto organizzato nell'area di Agia Paraskevia ad Alandri. E da allora abbiamo sviluppato una relazione di compagni che dura fino ad oggi. Quando ho scelto la clandestinità sono stato informato che Stella aveva intenzione di assistermi non solo a causa della nostra amicizia, ma anche per gli ideali di solidarietà che caratterizzano l'ambiente anarchico quando si ha a che fare con lo Stato. Così nel novembre 2010, in seguito alla pubblicazione delle foto dei tre membri delle CCF, così come delle mie e di Karagiannidis, perché i sospetti per l'invio di pacchi bomba alle ambasciate e ai funzionari statali, come sopra menzionato, e naturalmente per via di una maggiore difficoltà di movimento e possibilità di riconoscimento che derivano da questo sviluppo, ho scoperto che Saccas che Stella è falsa da me, in modo da poter affittare una casa a nascondiglio per me in caso fossi stato riconosciuto, cosa che infine non fu necessaria. In conclusione dirò che sono un difensore della distruzione dello Stato, della religione, del sistema capitalista e dell'etica civile da parte di un movimento liberatorio radicale. Ho preso parte alle azioni e ai processi nell'ambiente anarchico antiautoritario da quando avevo 15 anni fino al mio arresto. Ho partecipato e organizzato nell'ambiente anarchico perché era l'unica e la più sovversiva forza nell'era del mondo capitalista postmoderno. Questo è quello che ho da dirvi. E il testo è firmato. Questa è la dichiarazione di Alexandros Mitroulousias davanti alla corte. Io ho sempre dei miei dubbi sul rilasciare certe dichiarazioni. Va bene quando uno rivendica le proprie cose, quando poi uno va a includere terze persone, terzi compagni, non lo so come sono gli accordi tra di loro, però ho sempre dubbi su queste dichiarazioni. Vabbè, ora ci ascoltiamo un altro brano, loro, lei è Così fanno tutti con COH, e poi dopo si torna qui con l'ultimo testo della giornata. Questi erano COH, Così fanno tutti con il brano Near You. Si ritorna per l'ultima notizia di controinformazione breve della, per oggi, poi dopo manderemo subito il podcast fino alle 7, rimanderemo per intero tutta la diretta, vista che è durata a poco, e anche per chi si è messo ad ascoltarla più tardi, così potete riascoltarvi, farvi due palle così da quando si è iniziato alle ore 17. Allora, l'ultima notizia di controinformazione arriva da Lipsia, Germania, dove è stata attaccata la Deutsche Bank in solidarietà con gli anarchici spagnoli arrestati. In solidarietà con gli anarchici arrestati in Spagna abbiamo attaccato l'agenzia della Deutsche Bank a Lipsia. In Spagna il 16 dicembre 2014 diverse unità della polizia hanno effettuato un raid coordinato in 12 appartamenti con conseguente arresto di 11 anarchici. Uno dei pretesti per cui è avvenuto questo raid è la distruzione di un bancomat da parte degli imputati. Siamo solidali con chi è stato colpito dalla repressione statale e chi ha distrutto il bancomat e rotto le finestre della Deutsche Bank situata in Lindenauer Markt. Alcuni sono colpiti, siamo tutti coinvolti. Sosteniamo la chiamata alla violenza per il 31 dicembre, ormai bella passata, del 2014. Con questo era l'ultima notizia. C'era anche il testo dei compagni arrestati per l'operazione Pandora, che Pandora, no Pandoro, si parlava il 31 dicembre, Pandoro. Dicevo, c'era il testo per che tra stasera e domani sarà pubblicato anche sul sito di Radiazione. Non ce la faccio a leggere, c'ho la gola solo durante il testo di Mitrusias, stavo avendo 3-4 collassi alla gola. Ricordiamo gli appuntamenti, quindi l'appuntamento con quello che abbiamo perso oggi lo rileggeremo lunedì, quindi tra 3 giorni. Non c'è fretta. Se erano cose molto più importanti l'avremmo letto immediatamente. Quindi appuntamento con la prossima diretta d'azione per lunedì 12 gennaio. Diretta d'azione, come chi sa e chi ascolta Radiazione, è la giornata, è la diretta in cui ci sono sia le letture di Nessuno ci salva e Nate alle 13 che la controinformazione, tutto alternato, una lettura, una notizia di controinformazione, Nate alle 13 e poi la musica, così non per far accassarvi la testa per 2 ore. Allora, appuntamento a lunedì. Ora vi lascio con il jingle e poi riparte subito la diretta d'azione da capo. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione.